Il giorno in cui Esteban Trueba aveva chiesto di essere ricevuto, Severo e Nivia Del Valle ricordarono le parole con cui Clara aveva infranto il suo lungo mutismo, sicché non mostrarono alcuno stupore quando l'ospite chiese loro se non avessero qualche figlia in età e condizione per sposarsi. Fecero i conti e gli riferirono che Anna si era fatta monaca, Teresa era molto malata e tutte le altre erano sposate, meno Clara, la minore, che era ancora disponibile, ma era una creatura un po' stramba, poco adatta alle responsabilità matrimoniali e alla vita domestica. Con molta onestà gli raccontarono le stranezze della loro figlia minore, senza omettere il fatto che era rimasta senza parlare per metà della sua esistenza, perché non aveva voglia di farlo e non perché non poteva. Come aveva chiarito molto bene il rumeno Rostipov e confermato il dottor Cuevas con innumerevoli visite. Ma Esteban Trueba non era uomo da lasciarsi intimidire da storie di fantasmi che girano per i corridoi, da oggetti che si muovono a distanza col potere della mente o da presagi di sventura, e molto meno dal protratto silenzio che considerava una virtù. Concluse che nessuna di queste cose rappresentava degli inconvenienti per mettere al mondo figli sani e legittimi e chiese di conoscere Clara. Nivea andò a cercare sua figlia e i due uomini rimasero soli nella sala, circostanza di cui Trueba approfittò con la sua franchezza abituale per esporre senza preamboli la sua situazione economica. Oh, per favore, non vada avanti, Esteban, lo interruppe Severo. Prima di tutto deve vedere la bambina, conoscerla meglio e poi dobbiamo tenere in considerazione i desideri di Clara, non le pare? Nivea tornò con Clara. La giovane entrò nella sala con le guance arrossate e le unghie nere perché era stata ad aiutare il giardiniere a piantare bulbi di dalie e in quell'occasione le era venuta meno la chiaroveggenza per aspettare il futuro fidanzato con un aspetto più accurato. Vedendola, Esteban si alzò, meravigliato. La ricordava come una creatura magra e asmatica, senza la minima grazia, ma la giovane che gli stava davanti era un delicato medaglione di avorio, con un viso dolce e un cespuglio di capelli castani, crespi e disordinati, che le sfuggivano in riccioli dalla pettinatura. Occhi malinconici che si trasformavano in un'espressione burlesca e scintillante quando rideva, con una risata franca e aperta, con la testa leggermente china all'indietro. Lo salutò con una stretta di mano, senza mostrare timidezza. «Stavo aspettandola», disse semplicemente. Passarono un paio d'ore in visita di cortesia, parlando della stagione lirica, dei viaggi in Europa, della situazione politica e dei raffreddori dell'inverno, bevendo vino dolce e mangiando dolci di pasta sfoglia. Esteban osservava Clara con tutta la discrezione di cui era capace, sentendosi a poco sedotto dalla ragazza. Non si ricordava di avere provato tanto interesse per qualcuno dal giorno glorioso in cui aveva visto Rosa, la bella, che comprava caramelle all'anice nella pasticceria della Plaza de Armas. Confrontò le due sorelle e giunse alla conclusione che Clara era avvantaggiata in simpatia, sebbene Rosa senza dubbio fosse stata molto più bella. Calò la sera ed entrarono due cameriere a tirare le tende e ad accendere le luci. Allora Esteban si rese conto che la sua visita era durata troppo, le sue maniere lasciavano molto a desiderare. Salutò rigidamente Severo e Nivea e chiese il permesso di visitare Clara di nuovo. «Spero di non annoiarla, Clara», disse arrossendo. «Sono un uomo rude, di campagna, e sono di almeno 15 anni più vecchio. Non ci so fare con una giovane come lei». «Lei vuole sposarsi con me?» chiese Clara e lui notò un brillio ironico nelle sue pupille nocciola. «Clara, per l'amor di Dio!» esclamò sua madre inorridita. Oh, la scusi, Esteban, questa bambina è sempre stata molto impertinente. No, voglio saperlo, mamma, per non perdere tempo, disse Clara. Oh, anche a me piacciono le cose dirette, sorrise felice Esteban. Sì, Clara, sono venuto per questo. Clara lo prese per un braccio e lo accompagnò fino all'uscita. Dall'ultimo sguardo che si erano scambiati, Esteban aveva capito che l'aveva accettato e fu invaso dall'allegria. Salendo sulla carrozza, sorrideva senza poter credere alla sua fortuna e senza sapere perché una giovane così incantevole come Clara l'avesse accettato senza conoscerlo. Non sapeva che lei aveva visto il proprio destino, per questo l'aveva chiamato col pensiero ed era disposta a sposarsi senza amore. Lasciarono trascorrere qualche mese per rispetto al lutto di Esteban, durante i quali lui la corteggiò all'antica, nello stesso modo in cui l'aveva fatto con sua sorella Rosa. Senza sapere che Clara detestava le caramelle all'anice e gli acrostici la facevano ridere. fine anno vicino a Natale, annunciarono ufficialmente il loro fidanzamento sui giornali e si scambiarono gli anelli davanti ai parenti e agli amici intimi, durante il banchetto pantagruelico in cui sfilarono i vassoi con tacchini ripieni, i maiali caramellati, i gongri in acqua fredda, le aragoste gratinate, le ostriche vive, le torte di arance e limone delle carmelitane, di mandorle e noci delle domenicane, di cioccolato e crème caramel delle clarisse e casse di champagne fatte venire dalla Francia tramite il console, che faceva contrabbando grazie ai suoi privilegi diplomatici. Ma il tutto presentato con grande semplicità dalle vecchie domestiche della casa con i loro grembiuli neri di tutti i giorni per dare al festino l'aspetto di una modesta riunione familiare, perché qualsiasi stravaganza era una prova di ciarlataneria ed era condannata come un peccato di vanità mondana e un segno di cattivo gusto, per via dell'austerità degli antenati e delle antenate, e di un che di lugubre di quella società discendente dai più valorosi emigranti castigliani e baschi. Clara era una visione in pizzo di chantilly bianco e camelie naturali, che si liberava come un pappagallino felice dei 9 anni di silenzio, ballando col suo fidanzato sotto i padiglioni e le luci del tutto incurante degli avvisi degli spiriti che le facevano segnali disperati dalle tende, ma che nella ressa e nella confusione lei non vedeva. La cerimonia dello scambio degli anelli era rimasta immutata dai tempi della colonia. Alle 10 di sera un servitore passò fra gli invitati agitando un campanellino di cristallo. Tacque la musica, si arrestò il ballo e gli invitati si riunirono nel salone principale. Un sacerdote piccolo e innocente, vestito dei paramenti della messa grande, lesse l'ingarbugliato discorso che aveva preparato, esaltando confuse e impraticabili virtù. Clara non l'ascoltò, perché quando si erano spenti lo strepito della musica e il fruscio dei ballerini, prestò attenzione ai sussurri degli spiriti fra le tende e si rese conto che da molte ore non vedeva Barrabás. Lo cercò con lo sguardo, con i sensi allerta, ma una gomitata della madre la restituì alla cerimonia. Il sacerdote terminò il suo discorso, benedisse gli anelli d'oro e subito Esteban ne infilò uno al dito della sua fidanzata e l'altro al suo. In quel momento un grido di orrore scosse la folla. La gente si fece da parte aprendo un varco attraverso cui entrò Barrabás, più grosso e più nero che mai, con un coltello da macellaio infilato fino al manico nella schiena, dissanguandosi come un bue, con le lunghe zampe da puledro tremanti, il muso che sbavava un filo di sangue, gli occhi annebbiati dall'agonia, un passo dopo l'altro, trascinando una zampa dietro l'altra in un'avanzata zigzagante da dinosauro ferito. Clara cadde a sedere sul divano di seta francese e il cagnone le si avvicinò, le posò la grossa testa da fiera millenaria sulla gonna e rimase a guardarla con i suoi occhi innamorati che si andavano offuscando e diventando ciechi, mentre il bianco pizzo di Chantilly, la seta francese del divano, il tappeto persiano e il palchetto si inzuppavano di sangue. Barrabás si spense, morendo senza alcuna fretta, con gli occhi fissi su Clara, che gli accarezzava le orecchie e mormorava parole di conforto finché non cadde e con un unico rantolo rimase stecchito. Allora tutte sembrarono svegliarsi da un incubo e un brusio di spavento percorse il salone. Gli invitati cominciarono a salutare frettolosamente, a fuggire schivando le pozze di sangue, riprendendosi al volo le loro stole di pelliccia, i loro cappelli a bombetta, i loro bastoni, i loro ombrelli, le loro borse. Nel salone della festa rimasero solamente Clara con la bestia in grembo, i suoi genitori che si abbracciavano paralizzati dal cattivo presagio, e il fidanzato che non capiva la causa di tanto scompiglio per un semplice cane morto. Ma allorché si rese conto che Clara sembrava intimorita, la prese in braccio e la portò in deliquio nella sua stanza, dove le cure della nana e i sali del dottor Cueva si impedirono che ricadesse nello stupore e nel mutismo. Esteban Trueba chiese aiuto al giardiniere e insieme gettarono nella carrozza il cadavere di Barrabás, che con la morte era aumentato di peso ed era ormai quasi impossibile sollevarlo. L'anno trascorse nei preparativi delle nozze. Nivea si occupò del corredo di Clara, la quale non dimostrava il minimo interesse per il contenuto dei bauli di sandalo e continuava a fare esperimenti col suo tavolino a tre gambe e le sue carte divinatrici. Le lenzuola ricamate con maestria, le tovaglie di lino e la biancheria intima che 10 anni prima avevano fatto le monache con le iniziali intrecciate di Trueba e del Valle servirono per il corredo di Clara. Nivea ordinò a Buenos Aires, a Parigi e a Londra vestiti da viaggio, indumenti per la campagna, abiti da sera, cappellini alla moda, scarpe e borsette di pelle di lucertola e di camoscio, e altre cose che vennero riposte nella carta di seta e conservate con lavanda e canfora senza che la fidanzata desse loro niente di più che un'occhiata distratta. Esteban si mise alla testa di una squadra di muratori, falegnami e idraulici per costruire la casa più solida, ampia e soleggiata che si potesse concepire, destinata a durare 1.000 anni e a ospitare varie generazioni di una numerosa famiglia di Trueba legittimi. Ordinò il progetto a un architetto francese e fece venire la maggior parte dei materiali dall'estero affinché la sua casa fosse l'unica, con vetrate tedesche, zoccoli scolpiti in Austria, rubinetteria di bronzo inglese, marmi italiani sui pavimenti e serrature richieste su catalogo negli Stati Uniti, che giunsero con le istruzioni sbagliate e senza chiavi. Ferula, inorridita per le spese, fece in modo di evitare che continuasse a far pazzie comprando mobili francesi, lampadari a gocce e tappeti turchi, adducendo che avrebbero finito per rovinarsi e avrebbero di nuovo ripetuto la storia del Trueba stravagante che li aveva messi al mondo. Ma Esteban le dimostrò che era sufficientemente ricco per potersi permettere quei lussi e la minacciò di foderare le porte d'argento se continuava a infastidirlo. Allora lei aggiunse che tanto spreco era sicuramente un peccato mortale e che Dio li avrebbe castigati tutti per aver speso in ciarlatanerie da nuovo ricco quello che sarebbe stato meglio impiegato per aiutare i poveri. Malgrado Esteban Trueba non fosse amante delle innovazioni, anzi, al contrario, avesse molta sfiducia nella rivoluzione della modernità, aveva deciso che la sua casa dovesse essere costruita come le palazzine d'Europa e del Nord America, con tutte le comodità, pur rispettando uno stile classico. Desiderava che fosse il più lontano possibile dall'architettura aborigena. Non voleva tre cortili, corridoi, fontane striminzite, stanze buie, pareti di mattoni imbiancate a calce, né tegole polverose, bensì 2 o 3 piani arditi, file di bianche colonne, una scalinata signorile che facesse mezzo giro su se stessa e finisse su un ingresso di marmo bianco. Finestre grandi e illuminate, e in generale un aspetto di ordine, di armonia, di bellezza e di civiltà, tipico dei popoli stranieri e in consonanza con la sua nuova vita. La sua casa doveva essere il riflesso di lui, della sua famiglia e del prestigio che intendeva dare al nome che suo padre aveva macchiato. Voleva che lo splendore si vedesse fin dalla strada, perciò fece disegnare un giardino alla francese, con un padiglione come a Versailles, aiuole di fiori, un prato liscio e perfetto, zampilli d'acqua e qualche statua raffigurante gli dei dell'Olimpo e magari qualche prode indiano della storia americana, nudo e coronato di piume per una concessione al patriottismo. Non poteva sapere che quella dimora solenne, cubica, compatta e presuntuosa, collocata come un cappello nel suo verde e geometrico contorno, avrebbe finito per riempirsi di protuberanze, di aggiunte, di molteplici scale a chiocciola che conducevano in luoghi vaghi, di torri, di finestrine che non si aprivano, di porte sospese nel vuoto, di corridoi ritorti e di occhi di bue che mettevano in comunicazione le stanze per parlarsi all'ora della siesta, secondo l'ispirazione di Clara, che ogni qualvolta aveva bisogno di sistemare un nuovo ospite e faceva fabbricare un altro locale in qualunque punto. Se gli spiriti le indicavano che c'era un tesoro nascosto o un cadavere insepolto nelle fondamenta, avrebbe fatto abbattere un muro, sino a trasformare la dimora in un labirinto incantato, impossibile da pulire, che sfidava numerose leggi urbanistiche e municipali. Ma quando Trueba costruì quella che tutti chiamavano la grande casa dell'angolo, aveva un desiderio di solennità che cercava di imporre a tutto quello che lo circondava in ricordo delle privazioni della sua infanzia. Clara non andò mai a vedere la casa durante il periodo della costruzione. Sembrava che le interessasse come il suo corredo e affidò le decisioni a suo fidanzato e alla sua futura cognata. Alla morte di sua madre, Ferula si era trovata sola e senza niente di utile a cui dedicare la sua vita, in un'età in cui non si illudeva di potersi sposare. Per un certo tempo era andata a visitare i rioni popolari ogni giorno, in una frenetica opera pia che le procurò una bronchite cronica e non portò alcuna pace alla sua anima tormentata. Esteban avrebbe voluto che viaggiasse, che si comprasse abiti e che si divertisse per la prima volta nella sua malinconica esistenza, ma lei aveva l'abitudine dell'austerità ed era stata troppo tempo chiusa nella sua casa. Aveva paura di tutto. Il matrimonio del fratello la immergeva nell'incertezza perché pensava che sarebbe stato un motivo in più di allontanamento per Esteban, che era il suo unico appoggio. Temeva di finire i suoi giorni lavorando all'uncinetto in un ricovero per zitelle di buona famiglia, perciò si sentì molto felice quando scoprì che Clara era incompetente di tutte le cose di carattere domestico e ogni volta che doveva affrontare una decisione assumeva un'aria distratta e vaga. È un po' idiota, aveva concluso Ferula soddisfatta. Era evidente che Clara era incapace di amministrare la grande casa che suo fratello stava costruendo e che aveva bisogno di aiuto. In modo sottile e indiretto fece sapere a Esteban che la sua futura moglie era un'inetta e che lei, col suo spirito di sacrificio così ampiamente dimostrato, avrebbe potuto aiutarla ed era disposta a farlo. Esteban non seguiva la conversazione quando prendeva questa piega. A mano che si avvicinava la data del matrimonio e si presentava l'urgenza di decidere la sua sorte, Ferula cominciò a disperarsi. Convinta che con suo fratello non avrebbe ottenuto nulla, cercò l'occasione di parlare da sola con Clara e la avvicinò un sabato alle 5 del pomeriggio quando la vide passeggiare per strada. L'invitò all'hotel francese a prendere il tè. Le due donne si sedettero circondate da pasticcini alla crema e porcellane di Baviera, mentre in fondo al salone un'orchestra di signorine interpretava un malinconico quartetto d'archi. Ferula osservava con dissimulazione la sua futura cognata, che sembrava avere 15 anni e che aveva ancora la voce stridula per via degli anni di silenzio, senza sapere come affrontare l'argomento. Dopo una lunghissima pausa, durante la quale mangiarono un vassoio di pasta e bevvero due tazze di tè al gelsomino a testa, Clara si sistemò una ciocca di capelli che le cadeva sugli occhi, sorrise e diede un colpetto affettuoso con la sua mano su quella di Ferula. Non preoccuparti, vivrai con noi e noi due saremo come due sorelle, disse la ragazza. Ferula ebbe un sussulto, chiedendosi se non fossero veri i pettegolezzi sull'abilità di Clara di leggere nel pensiero degli altri. La sua prima reazione fu di orgoglio e avrebbe rifiutato l'offerta. Non fosse altro che per la bellezza del gesto, ma Clara non gliene diede il tempo. Si chinò e la baciò sulle guance con un tale candore che Ferula perse il controllo e scoppiò in singhiozzi. Era molto tempo che non piangeva più e constatò stupita il bisogno che aveva di un gesto di tenerezza. Non ricordava l'ultima volta che qualcuno l'aveva toccata spontaneamente. Pianse a lungo, sfogando molte tristezze e solitudini passate, tenendo per mano Clara che l'aiutava a soffiarsi il naso e tra un singhiozzo e l'altro le dava altri pezzi di dolce e sorsi di tè. Rimasero a piangere e a parlare fino alle 8 e quella sera all'hotel francese sigillarono un patto di amicizia che durò molti anni. Appena finì il lutto per la morte di donna Esther e la grande casa dell'angolo fu sistemata, Esteban Trueba e Clara Del Valle si sposarono con una cerimonia discreta. Esteban regalò a sua moglie un diadema di brillanti che lei trovò molto carino, lo mise in una scatola da scarpe e subito dimenticò dove l'aveva messo. Fecero un viaggio in Italia e 2 giorni dopo l'imbarco, Esteban si sentiva innamorato come un adolescente. Nonostante il movimento della nave avesse immerso Clara in un mal di mare incontrollabile e lo stare al chiuso le avesse provocato l'asma. Seduto al suo fianco, nella stretta cabina, mentre le applicava pezzuole bagnate sulla fronte e la sorreggeva quando vomitava, si sentiva profondamente felice e la desiderava con un'intensità ingiustificata, se si pensa alle condizioni pietose in cui la poveretta si trovava. Il quarto giorno si svegliò un po' rinfrancata e andarono in coperta a guardare il mare. Vedendola col naso arrossato dal vento e ridente per qualsiasi pretesto, Esteban giurò a se stesso che prima o poi lei l'avrebbe amato così come lui aveva bisogno di essere amato, anche se per ottenerlo avesse dovuto ricorrere agli espedienti più estremi. Si rendeva conto che Clara non gli apparteneva e che se lei avesse continuato ad abitare in un mondo di apparizioni, di tavolini a tre gambe che si muovono da soli e di carte che scrutano il futuro, la cosa più probabile era che non gli sarebbe appartenuta mai. Non gli bastava neppure la spregiudicata e impudica sensualità di Clara. Desiderava molto più del suo corpo, voleva appropriarsi di quella materia imprecisa e luminosa che c'era nel suo intimo e che gli sfuggiva anche nei momenti in cui sembrava agonizzare di piacere. Sentiva che le sue mani erano molto pesanti, la sua voce molto dura, la sua barba molto pungente, la sua abitudine di violentare e di frequentare prostitute molto radicata. Ma avesse anche dovuto rovesciarsi come un guanto, era deciso a sedurla. Tornarono dalla luna di miele 3 mesi dopo. Ferula li aspettava nella casa nuova, che aveva ancora l'odore di pitture di cemento fresco, piena di fiori di vassoi di frutta, così come Esteban le aveva ordinato. Varcando la soglia per la prima volta, Esteban prese in braccio la moglie. Sua sorella si sorprese di non provare gelosia e osservò che Esteban sembrava ringiovanito. «Ti ha fatto bene il matrimonio?» disse. Portò Clara in giro per la casa. Lei sorvolava con lo sguardo e trovava tutto molto carino, con la stessa cortesia con cui aveva lodato un tramonto in alto mare, la piazza San Marco a Venezia o il diadema di brillanti. Sulla soglia della stanza a lei destinata, le chiese di chiudere gli occhi e la condusse per mano fin nel mezzo. «Ora puoi aprirli», disse affascinato. Clara si guardò intorno. Era una stanza grande, con le pareti tappezzate di azzurro, mobili inglesi, grandi finestre con balconi aperti sul giardino e un letto con baldacchino e tende di velo che la facevano assomigliare a un veliero che navigasse sull'acqua quieta della seta azzurra. «Molto carino», disse Clara. Allora Esteban le indicò il punto dove posava i piedi. Era la meravigliosa sorpresa che le aveva preparato. Clara abbassò gli occhi e cacciò un grido spaventoso. Se ne stava sulla schiena nera di Barrabas, che giaceva a gambe aperte, trasformato in tappeto, con la testa intatta e due occhi di vetro che la guardavano con l'espressione di abbandono propria della tassidermia. Suo marito fece in tempo a reggerla prima che cadesse al suolo. «Te l'avevo detto che non le sarebbe piaciuto, Esteban», disse Ferula. Il corpo conciato di Barrabas venne rapidamente tolto dalla stanza e gettato in un angolo della cantina, insieme ai libri di magia, dei bauli incantati dello zio Marcos e ad altri tesori, dove si difese dalle tarme e dall'abbandono con una tenacia degna di miglior causa finché altre generazioni non lo riscattarono. Ben presto divenne evidente che Clara era incinta. L'affetto che Ferula sentiva per sua cognata si trasformò in una passione nel curarla, una dedizione nel servirla e una tolleranza illimitata nel resistere alle sue distrazioni ed eccentricità. Per Ferula, che aveva trascorso una vita a curare un'anziana che stava marcendo irrimediabilmente, badare a Clara fu come entrare nella gloria. Le faceva il bagno in acqua profumata al basilico e al gelsomino, la strofinava con una spugna, la frizionava con acqua di colonia, la incipriava con un piumino di cigno e le spazzolava i capelli fino a renderli brillanti e docili come una pianta marina. Così, come prima, aveva fatto la nana.